viene annoverato dalla critica fra le voci più significative della nuova poesia italiana e ha dato alle stampe ben due raccolte di liriche con la casa editrice Einaudi. A chi mi riferisco? Vabbè, ovviamente ad Alessandro Fo. Sì, proprio Alessandro Fo, che attualmente insegna letteratura latina all'Università di Siena e che ho chiamato di recente al cellulare per intervistarlo brevemente. Innanzitutto, professor Fo, sarebbe così cortese da parlarmi della sua carriera di poeta? Quali ne sono state le tappe principali? Le prime tappe della mia carriera devo molto a Vanni Scheville e a Franco Buffoni. Franco Buffoni mi inserì nel secondo quaderno dei poeti italiani da lui organizzato e diretto. E Vanni Scheville apprezzò le mie poesie, mi fece prima una plaquette all'interno degli 8 poeti del premio Montale, che venivano all'epoca editi all'insegna del Pesce d'Oro. E poi il primo libro di poesie, 8 febbraio nel 1995. Eravamo entrambi nati l'8 febbraio, questa circostanza casuale, fortuita, ha giocato un certo ruolo, credo, nel polarizzare l'interesse di Scheville sulla mia produzione. In seguito le tappe principali sono state, credo, le piccole poesie per banconote, edite da Polistampa nel 2002, un libro che salutava l'uscita della lira e l'entrata dell'euro con piccole composizioni stampate in modo da figurare riprodotte su una banconota della lira che appunto finiva di avere il suo corso e dell'euro che entrava appunto in vigore. E poi Corpuscolo, una prima antologia di un certo respiro, edita da Einaudi nella collezione Bianca nel 2004. Vecchi filmati, una raccolta che il collega Romano Luperini ha voluto pubblicare nella sua collana presso Magni, e ora la nuova raccolta presso Einaudi, di nuovo nella collana bianca, Mancanze. Da che deriva il carattere così ironico e crepuscolare dei suoi versi? Ma il carattere crepuscolare e ironico dei miei versi è dovuto, credo, a inclinazioni personali, alla declinazione che prende la vocazione di ciascuno. Certo, è una inclinazione che ho anche alimentato, con la predilezione che nasce naturalmente sulla stessa linea per certe particolari voci. In particolare ho sempre avuto un amore speciale per Bozzano e credo che questo abbia lasciato senza dubbio la sua traccia. Ma in generale penso che un poco di autoironia non faccia mai male e la venatura malinconica, quella, come ripeto, nasce con la stessa persona che parla, che dice io nelle poesie. Si può trattare di una persona melanconica, si può trattare di una persona più allegra, vivace, a me è andata così. Vorrebbe gentilmente descrivere ai miei ascoltatori la forma e il contenuto della sua ultima raccolta poetica Mancanze? La mia nuova raccolta di poesie Mancanze è divisa in tre piccole sottosezioni. La prima si intitola Il Libro d'Oro e cerca di inseguire un po' di spiritualità, un po' di tracce del divino a partire da situazioni molto contingenti, banali, tipiche della vita quotidiana. I titoli delle singole poesie riprendono tendenzialmente pericopi delle tre preghiere cristiane principali, il Padre Nostro, l'Ave Maria e Gloria al Padre. Ma non tutte le pericopi sono rappresentate perché alcune poesie, che pur completavano il disegno della raccolta, non mi sono sembrate alla fine degne di essere inserite e hanno così innescato una prima serie di mancanze che si ritrovano lungo il libro. Anche nelle altre due sezioni ho alla fine deciso di non presentare alcune poesie che mi sembravano relativamente meno convincenti. In fondo, se lo stesso autore inserisce delle poesie che ritiene puramente di connettivo, senza esserne pienamente convinto, è il primo a indebolire la propria raccolta poetica. E così anche lì ho operato una piccola selezione. La seconda raccolta, interna alle mancanze, è una raccolta di poesie che riguardano la vita e la produzione musicale di Chopin. Si intitola Il tono blu, Variazioni Chopin. Qui ho attinto a varie fonti, sia musicologiche che biografiche, e ho campito in piccoli cammei, momenti della vita di questo grande musicista che, ci commuove tuttora e ci rapisce con la sua poesia musicale. La terza sezione si intitola Figure d'angeli, con un titolo rubato alla Vita Nuova di Dante. C'è un momento in cui Dante si apparta e, addolorato per la scomparsa di Beatrice, disegna figure d'angeli, arrivano dei pellegrini, lo distraggono e poi lui ritorna a questo suo compito scrivendo: Onde partiti costoro, ritornaimi alla mia opera, cioè del disegnare figure d'angeli. Anche io ho voluto disegnare figure d'angeli, ho fermato persone che incontravo nella vita, persone che incontravo a vario titolo, in varie situazioni, in vari luoghi, e che mi sembravano mostrare in una piega della loro esistenza una qualche caratura angelica che meritava di essere salvata nei versi. Il titolo della raccolta avrebbe dovuto essere originariamente Reliqua Desiderantur, con una formula filologica che indica che all'interno della produzione di un poeta non si è potuto salvare tutto, qualcosa è andato disperso di solito per ragioni di tradizione manoscritta, ma poi abbiamo deciso che il titolo latino fosse troppo impegnativo, c'era anche una vaga convergenza con un'opera di Fortini nella stessa collana, Composita Solvantur, e abbiamo preferito ripiegare su un titolo italiano che avesse un alone di significati piuttosto vasto, Mancanze, che va a cogliere sia queste espunzioni dal punto di vista dell'architettura della raccolta, sia tutte quelle lacune che abbiamo nella nostra vita, che avvertiamo con dolore, le persone che ci vengono a mancare, gli amori finiti, e anche le mancanze intese come gesti che, se potessimo, torneremmo indietro e non compiremmo più. Da lei che ha tradotto Virgilio, vorrei sapere se l'Italia di oggi abbia qualcosa da imparare dall'antica civiltà romana. Riguardo alla civiltà romana vedo soprusi, imperialismo, espansionismo, priorità degli interessi economici, scarsa solidarietà, e quindi direi che possiamo imparare delle cose per moto contrario. Dovremmo cercare di essere diversi da così. Se guardo al legato culturale, al legato in particolare letterario, che è ciò che costituisce l'oggetto principale dei miei interessi, non posso invece fare a meno di segnalare che all'interno pur di un sistema organizzato così come ho detto, e cioè polarizzato su un'ideologia tutto sommato di potere, espansionistica e così via, si sono prodotte voci invece sensibili a quella che non a caso si chiama proprio con un vocabolo latino, ed è cioè la humanitas. Se penso a Lucrezio, se penso a Catullo, allo stesso Virgilio delle bucoliche e delle georgiche, nonché dell'Eneide, nonostante la caratura che l'Eneide ha anche come poema dell'imperialismo, poema dell'età augustea, poema dell'ideologia augustea, ecco, se penso a tutti questi personaggi, allo stesso Cicerone, a Terenzio, a Seneca, per non nominare addirittura gli autori poi cristiani, Sant'Agostino in particolare, non posso che insistere nella mia posizione di antichista e sottolineare che ancora questi testi, questi scrittori, pur lontani nel tempo, ci porgono medicine, conforti, ci additano orizzonti che sono del tutto degni di essere seguiti, forse sono addirittura i più degni di essere seguiti. A che si devono, secondo lei, i tanti errori che l'Italia ha commesso negli ultimi decenni a livello sia economico che sociopolitico? Come porvi rimedio? La poesia e l'arte potranno mai contribuire, in una qualche misura, a correggerli e risanare il nostro paese? Questa è una domanda molto molto difficile e che non può prevedere una risposta univoca. È anche allo stesso tempo una domanda molto personale in qualche modo, perché ciascuno credo che darebbe la sua risposta. Non so fare una diagnosi, purtroppo l'imperfezione umana si articola in vari modi, sia in Italia che altrove, e anzi altrove ci sta dando ultimamente prove veramente dure da sentire sulla nostra pelle, da avvertire, di cui essere informati. E quindi, che dire, non si può certo escogitare su due piedi una medicina che possa guarire l'una o l'altra situazione. In ogni caso, chi come me pratica la letteratura, tenta anche di esprimersi con una voce poetica, e tramite questa voce poetica tenta di additare valori, di mettere in evidenza cose che sono degne di essere ricordate per la loro bellezza, Ecco, chi opera in questa direzione non può naturalmente non continuare a nutrire una certa fiducia che forse un giorno la letteratura, l'arte e la bellezza riusciranno a incivilire un po' questo duro scoglio petroso dell'anima umana che è abbarbicato agli interessi, agli interessi economici, all'egoismo, riesce a produrre ancora tante nefandezze.